effetto notte estate. Puntualissimi le 18:30 minuti 25 secondi, effetto notte estate. Buonasera da Andrea Ferro che vi parla al microfono, da Valeria Bernardi in regia, Valentina Ternullo e Alessandro Schirano che mi assistono in redazione. Apriamo il diario di questa estate, scriviamo un'altra pagina, quella appunto di oggi, 28 luglio. Parleremo di tante cose, di trasporti, sia di passeggeri che di merci, sia terrestri che aerei, di turismo, di libri e poi inevitabilmente il punto sull'emergenza sanitaria con una testimonianza particolare e un viaggio all'estero e ancora poi poliziotti e carabinieri che a un certo punto deragliano dalla via maestra e vanno contro la legge. Stasera poi ci occupiamo di alberi che cadono nelle città e per poco non finisce male e di orsi che scappano e vagano per il Trentino, chiaramente mi riferisco all'ormai celeberrimo M49. Infine, per chiudere, una spruzzata di calcio tra presente, con le partite che si giocano stasera, e un po' di passato. Allora, l'apertura stasera è dedicata al mondo dei trasporti, sia di persone che di merci, un'apertura dettata dal fatto che l'argomento è di grande interesse generale, chiaramente la gente si sposta, si muove, viaggia e così viaggiano anche le merci e poi perché oggi sono arrivati tanti dati relativi a quello che è successo appunto sulle strade, nei porti, negli aeroporti, in cielo, in questi mesi molto particolari. In questo momento non abbiamo ancora gli ospiti collegati, quindi proseguiamo con la lettura dei dati. I primi arrivano dall'osservatorio congiunturale dei trasporti elaborato dall'ufficio studi di Confcommercio per Conftrasporto, si riferiscono al primo semestre del 2020. Lo studio evidenzia che il traffico passeggeri è crollato a meno 53% e quello delle merci a quasi meno 25%. In particolare gomma, ferro, mare, aereo presentano riduzioni tendenziali del traffico passeggeri nella prima metà dell'anno che vanno dal 45-50% al 70%. Poi ci sono i dati mensili diffusi da Assoaeroporti. Dopo l'allentamento delle restrizioni e la ripresa dei voli, il mese di giugno mostra i primi, seppur deboli, segnali di ripresa. I passeggeri salgono a 1,1 milioni con un incremento di 885 mila unità. I movimenti raddoppiano attestandosi a circa 28.400, praticamente raddoppiati rispetto a maggio. Ma se allarghiamo lo sguardo al primo semestre, i passeggeri sono calati del 69% e i movimenti degli aerei del 60%. Abbiamo recuperato un po' rocambolescamente gli ospiti. Iniziamo con Valentina Lehner, che è la direttrice generale di Assoaeroporti. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Prima leggevo i dati che avete diffuso oggi. Alla luce di questo crollo è difficile recuperare? Beh, è difficilissimo, diciamo. Noi abbiamo anche lanciato un messaggio di speranza, nel senso abbiamo visto positivamente questo incremento dei passeggeri che ci ha portato da maggio a giugno ad un incremento di 885.000 unità. Abbiamo raggiunto 1.100.000 passeggeri sugli aeroporti italiani. Certo, il dato non è molto confortante se lo paragoniamo a quello di un anno fa. A giugno del 2019 avevamo 18 milioni di passeggeri sugli aeroporti italiani, quindi gioire di 1 milione di passeggeri oggi non è facile, però che le devo dire, è comunque un segnale di ripresa rispetto a un sostanziale meno 100% che abbiamo avuto nella fase acuta del lockdown. Quindi è una ripresa, è sì, già qualcosa. Certo, una ripresa, però c'è un po' di turbolenza nei cieli. Leggo per esempio Ryanair è pronta a chiudere alcune basi. Purtroppo le prospettive allo stato attuale non sono incoraggianti. No, non sono incoraggianti. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di dare fiducia al passeggero, quindi siamo i primi come gestori aeroportuali a dare a seguire una serie di prescrizioni molto rigide per applicare protocolli sanitari che garantiscano, diciamo, al passeggero la massima sicurezza. Allo stesso tempo, anche a livello associativo, siamo i primi a cercare di invocare misure che siano proporzionate e diciamo in linea con gli orientamenti europei. per cui cerchiamo appunto di chiedere al governo, al Ministero della Salute, di applicare misure che garantiscano sicuramente che non si diffonda la pandemia, ovviamente il virus, allo stesso tempo che rendano comunque appetibili gli aeroporti italiani rispetto agli aeroporti europei, per esempio appunto adottando misure che siano in linea con gli indirizzi dettati dall'EASA a livello europeo. Ecco, non c'è anche un problema psicologico, però io sento tante persone che mi dicono no, quest'estate l'aereo non lo prendo perché in fondo è più pericoloso. Allora, che le devo dire? Diciamo, dal lato sicuramente della psicologia è innegabile. C'è una resistenza del passeggero a prendere l'aereo, il timore rispetto ad un mezzo di trasporto che ovviamente è chiuso, e quindi sicuramente abbiamo da superare innanzitutto questa diffidenza. Noi come la stiamo superando? Garantendo sicuramente tutti gli strumenti più moderni per minimizzare il rischio di diffusione del virus. Per esempio, negli aeromobili sono utilizzati sistemi più moderni di filtraggio dell'aria, stiamo sempre anche a descrivere questi sistemi di circolo dell'aria che vanno dall'alto verso il basso per evitare che si propagi la famosa gocciolina. Abbiamo implementato tutta una serie di misure, ovviamente dal distanziamento fisico in aeroporto all'utilizzo sempre costante della mascherina a bordo con ricambio ogni 4 ore per i voli di lungo raggio. Abbiamo anche, avuto misure che in Italia sono state più stringenti rispetto agli altri paesi. Da ultimo, non so se ha letto della polemica sul mancato utilizzo delle cappelle a bordo. L'ho vissuta direttamente. È stato, non voglio dire uno scivolone, perché peraltro è stata una misura attuativa posta in essere per consentire il superamento invece di un altro limite molto grosso che ha rallentato la partenza del traffico aereo nel nostro paese, che era l'obbligo, che solo in Italia, in pochi, a livello europeo direi da nessun altro paese era stato imposto, di distanziare i passeggeri all'interno dell'aeromobile di 1 metro. Distanziamento che ovviamente sociale è possibile negli spazi ampi, ma che all'interno della cabina di un aereo è sostanzialmente inattuabile, per il semplice motivo che determinerebbe un riempimento degli aeromobili pari al 65-70%, non consente all'aeromobile di volare perché è sostanzialmente antieconomico. Quindi il superamento del metro a bordo è stato disposto come una deroga condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni molto meticolose, ma io direi che tutti i soggetti della filiera aeroportuale, dei gestori, ai vettori, agli stessi passeggeri si stanno impegnando per contenere il rischio e minimizzare appunto la diffusione del virus e far capire che viaggiare in questo momento è accettabile, cioè come tutte le attività ovviamente presenta un rischio, ma questo rischio è minimizzato grazie all'impegno, voglio dire, di tutti i soggetti della filiera, compresi i passeggeri, che devono naturalmente rispettare tutte queste articolate prescrizioni. Anche se però il caso delle cappelliere in generale è stato un po' comico, perché voglio dire, una settimana sì, una settimana no. Io ho la sensazione che tutte queste prescrizioni, per quanto legittime, ci mancherebbe, non sono le condizioni per emettere dei giudizi, ci mancherebbe, non è neppure il mio mestiere, però oggettivamente queste prescrizioni che vanno e vengono hanno un po' appesantito questa situazione psicologica, che appunto ha determinato poi sostanzialmente un po' di incertezza da parte dei passeggeri rispetto ad un volo in questo momento. Ma certo, lo può dire di sicuro, sicuramente a livello di produzione normativa noi ci distinguiamo per l'adozione di tantissimi provvedimenti. Sicuramente il settore del trasporto aereo è uno di quelli in cui adeguare la normativa al modificato scenario nazionale e internazionale è corretto. Il problema è che però questa evoluzione deve essere fatta in maniera coerente, probabilmente, e correttamente divulgata. Guardavo ieri l'ultimo testo dell'autocertificazione che tutti i passeggeri che provengono dall'estero debbono firmare e sottoscrivere prima di venire in Italia, e sono 2,5 pagine di informazioni fittissime che fanno anche una rapida ricognizione di un articolatissimo quadro normativo di riferimento che il passeggero deve firmare in doppia copia prima di accedere all'interno dell'aeromobile. È evidente che tutto questo è molto complesso, farraginoso, spaventa in qualche modo e disincentiva il passeggero. Noi lavoriamo per una semplificazione, vuol dire il governo lavora per una semplificazione appena adottato. Beh, semplificazione impegnativa, è una parola molto impegnativa in Italia. Sì, sì, però devo dire che in questo momento io devo anche spezzare una lancia in favore di un percorso che è stato avviato. Io proprio voglio dire, il decreto semplificazione per quanto ci riguarda segna comunque una partenza rispetto a un percorso che speriamo veda la ripartenza del settore sia dal lato passeggero sia dal lato dello sviluppo infrastrutturale, uno sviluppo che ovviamente oggi, stante i numeri che ti ho detto, è sostanzialmente compromesso. Bene, allora prendiamo quota, prendiamo speranza, grazie per essere intervenuta a Effetto Notte Estate, Valentina Lenner, direttrice generale di Asso Aeroporti. Effetto Notte Estate. Torniamo a parlare di trasporti, sia di persone che di merci. Pasquale Russo, segretario di Coftrasporto, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, mentre lei non era collegato, io ho letto i dati diffusi oggi dall'Osservatorio Congiunturale dei Trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio per Contrasporto, non li ripeto per non essere lezioso con gli ascoltatori, però abbiamo un quadro della situazione in miglioramento per quanto riguarda quelli più recenti, però in generale un quadro grigio che preoccupa anche in prospettiva per la tenuta di molte imprese del settore, così? Sì, è evidente che la pandemia ha avuto un ruolo molto pesante, soprattutto sul trasporto passeggeri e quindi legato al comparto dell'armamento marittimo. Ha avuto un impatto nei numeri, nella riduzione dei volumi, meno complicato per il trasporto merci su strada, anche se ha comunque determinato un effetto dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dei costi, che ha parecchio squilibrato i conti economici delle imprese di trasporto. Per dirla meglio, nonostante non ci sia stato un calo significativo dei volumi della merce trasportata, c'è stato però un calo significativo della redditività delle imprese di trasporto per effetto, diciamo, di uno squilibrio dei bilanciamenti dei carichi che avrà e ha avuto già un effetto abbastanza negativo sui bilanci delle aziende di autotrasporto. Grazie Russo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla viabilità, poi torniamo a parlare di queste cose. Effetto Notte Estate. Allora, torniamo a parlare con Pasquale Russo, che è il segretario di Conftrasporto. Russo, durante il lockdown nella categoria degli eroi c'era anche quella c'erano anche gli autotrasportatori, tutti a lodarli per l'abnegazione in certe situazioni, anche un po' il coraggio di continuare a lavorare in condizioni davvero difficili. Pensiamo, inizialmente erano state chiuse anche le stazioni di servizio sulle autostrade, comunque era una condizione di lavoro in generale veramente molto problematica e rischiosa, indubbiamente. Poi però l'autotrasporto sta vivendo, a seguito di quello che è accaduto, in parte lo ha già accennato, un problema che riguarda poi i pagamenti magari proprio di quei servizi. C'è un'emergenza nella categoria, in buona sostanza questi servizi non vengono pagati o vengono pagati con grande ritardo, addirittura ci sono delle comunicazioni alle aziende da parte dei committenti che dicono vi pagheremo tra un anno. È un grosso problema. Questo è un problema enorme e lei ha ben ricordato che l'autotrasporto ha consentito al nostro paese di continuare a vivere, non è retorica, è la verità. Se si fossero fermati, soprattutto nelle settimane iniziali della pandemia, i servizi di trasporto e di logistica, noi oggi saremmo a raccontare, diciamo, una realtà molto ben diversa. Invece, grazie all'impegno, soprattutto anche dei nostri collaboratori, di tutti i conducenti, che con coraggio, in un momento in cui veramente c'era tanta confusione e c'era panico, le imprese hanno continuato a lavorare, hanno continuato a garantire i propri servizi, come dicevo prima l'hanno fatto anche con una redditività parecchio peggiorata per effetto della difficoltà di equilibrare i carichi. Arrivati a un certo punto c'era merce che poteva essere trasportata dal sud verso il nord, ma per effetto della chiusura di alcune fabbriche in Lombardia e Veneto non c'era la merce da portare dal nord verso sud, con evidenti, appunto, problemi di bilanciamento di carichi e quindi di redditività. A questo si è aggiunto il fenomeno che è stato da lei descritto prima. Adesso abbiamo committenti che non vogliono pagare nei tempi dovuti le prestazioni di servizio svolte durante il periodo di lockdown, ed è per questo che noi stiamo insistendo e abbiamo chiesto al Ministro, che però si è impegnato, questo lo voglio dire, abbiamo chiesto che venga rafforzata una norma che è già presente nel nostro ordinamento e che impegna, obbliga il committente di servizi di trasporto a erogare il pagamento entro i 60 giorni dell'avvenuto trasporto. Speriamo che il Ministro mantenga l'impegno e che si possa nel più breve tempo possibile arrivare ad un rafforzamento che garantisca ancora di più che i pagamenti vengano effettuati nei tempi dovuti, e non per fare un piacere al trasporto, ma perché è giusto e corretto che le nostre imprese non debbano vivere ulteriori disagi per effetto anche a volte di scuse che i committenti trovano nel non avere la possibilità di pagare nei tempi dovuti. Non si può certo far pagare all'autotrasporto, che ha lavorato, anche i problemi di liquidità che le imprese in questo momento comprensibilmente forse hanno avuto. Grazie Pasquale Russo, Conftrasporto, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte Estate. E ora parliamo di turismo, in qualche modo gli argomenti sono collegati, perché prima si parlava del calo del traffico aereo, il calo dei passeggeri negli aeroporti, perché anche gli stranieri durante quest'estate non vengono in Italia, o se vengono, vengono in numeri assolutamente ridotti rispetto al passato. È una situazione particolare in questo senso, è nelle città d'arte, nelle grandi città, grande patrimonio del nostro paese. Marco Michielli, vicepresidente nazionale Federalberghi, presidente di Federalberghi Veneto, buonasera. Buonasera a lei e radioascoltatori. Allora, come Federalberghi oggi avete diffuso, e stiamo facendo, voglio dire, un po' la conta in queste ore, visto che sono oggi tanti dati che fotografano la situazione nel nostro paese, dicevo, avete dato i numeri relativi al calo dei turisti a Venezia, un calo dei turisti italiani del 20% leggo, e un crollo del 70% di quelli stranieri, una situazione davvero molto pesante. Sì, ampiamente prevista purtroppo, perché lo studio di Federalberghi Nazionale, col quale siamo arrivati alla conclusione che in Italia quest'anno arriverà il 30% degli stranieri che sono venuti l'anno scorso, data già ormai un mese e mezzo, quindi non c'è nessuna novità, è una fotografia purtroppo dell'esistente, per far capire il dramma che sta vivendo il settore nostro. Per carità, prima hanno parlato i trasporti, anche loro sono messi malissimo, ma credo che la poco invidiabile palma dei più disgraziati vada proprio al turismo, alla cultura, allo spettacolo. Le città d'arte sono quelle che inevitabilmente pagano il prezzo più alto, è evidente. Sì, sicuramente sì, i più disgraziati appunto sono i colleghi delle città d'arte, per i quali purtroppo con molta freddezza bisogna dire che la ripresa partirà da marzo dell'anno prossimo e non prima. E nel frattempo tutti i nodi vengono al pettine, perché intanto, per fortuna, il governo ha annunciato oggi l'intenzione di prorogare 18 settimane la cassa integrazione, perché altrimenti a agosto sarebbero partiti gli inevitabili, dolorosissimi, non voluti, ma licenziamenti, perché a albergo chiuso non possono corrispondere 20, 30, 40, 50 persone pagate per non svolgere appunto il lavoro con l'albergo chiuso. E questo, per fortuna, ha intanto dato questi primi 18 settimane. Noi confidiamo che il provvedimento possa, ahimè, arrivare almeno fino al 31 dicembre, perché non c'è alba di un'uscita da questo tunnel. L'ha detto già lei prima, gli stranieri non vengono, ci sono città, uso sempre la mia adorata Venezia, ma per Roma vale lo stesso. A Venezia il 90% dei turisti sono stranieri, il 90% dei turisti arriva via ala, senza voli, come era stato detto nel servizio precedente. Senza i voli e senza stranieri, Venezia chiaramente è condannata a non poter lavorare. Venezia è bellissima, ancora più bella in questa condizione. Io ogni tanto vado a Venezia per lavoro, purtroppo per lavoro, vorrei veramente, ma sto seriamente valutando di prendermi 2 giorni perché Venezia, come la vedete adesso, non la vedrete mai più. È un grandissimo spot per Venezia, speriamo che porti bene anche alla categoria degli albergatori questo nostro appello, ma d'altronde è un'evidenza, una città così bella, così affollata, vederla in un contesto così unico, così particolare, è un'occasione veramente da non perdere. Grazie, grazie per essere intervenuto a Effetto Notte Estate, Marco Michielli, vicepresidente nazionale Federalberghi e presidente di Federalberghi Veneto. Allora, tanti dati negativi, e purtroppo questo è il quadro della situazione, non possiamo certo ignorare che la contabilità ha il segno meno un po' ovunque, però stasera in questa fase abbiamo un'occasione per vedere anche un segno più. Riccardo Franco Levi, presidente Associazione Italiana Editori, buonasera. Buonasera a voi. Allora, oggi, a proposito dei tanti dati che sono carambolati in redazione, leggo il vostro rilievo statistico che ci dice che il mercato del libro in Italia è in ripresa, la perdita di fatturato anno su anno si dimezza dal 20% di aprile all'11% di luglio. Finalmente una bella notizia. Sì, siamo arrivati a perdere un 70% delle vendite nelle librerie nei giorni della chiusura, ma dalla riapertura il libro ha rimostrato tutta la propria vitalità, quella vitalità peraltro che ne fa di gran lunga il primo settore culturale del paese, e nelle ultime settimane il segno è addirittura tornato positivo, per cui siamo ritornati ai livelli dello scorso anno, che era stato un buon anno. Naturalmente rimane il buco, per così dire, che ci portiamo dietro, del mancato fatturato di quelle settimane di chiusura, e che naturalmente avvalora la continua richiesta di un sostegno agli operatori più piccoli, però il segno è decisamente incoraggiante per il libro e speriamo che sia un segno valido per tutto il paese. Possiamo dire che tra gli effetti, le conseguenze di questo tempo così particolare, così fuori dal tempo, oserei dire, forse ci può essere appunto la positività della voglia di tornare a leggere un libro per evadere magari dal bollettino dei contagi, per evadere da una serie di notizie negative, per costruire anche così una forma di speranza per il futuro, quindi che possa essere in realtà una nuova stagione per il settore. Forse sì, però io lo vorrei interpretare in modo più profondo come un segno in realtà della vitalità di un settore industriale. Il mondo del libro è un'impresa, è un mondo di imprese, nel suo complesso vale più di 3 miliardi di euro, per cui è un grande settore produttivo che, ripeto, mostra la propria grande vitalità con due particolarità, che l'Italia spicca in Europa tanto per l'impegno delle istituzioni pubbliche a favore della lettura del libro in questo periodo, quanto per l'andamento del mercato. Se per una volta l'Italia è alla testa dell'Europa, che questo avvenga per il libro è francamente consolante. Ecco, c'è un po' di voglia di ritornare proprio in libreria in questi ultimi tempi? Io spero proprio di sì, i dati lo dimostrano, quantunque sappiamo che, per esempio, del resto l'hanno detto coloro che sono intervenuti prima di me, le stazioni ancora soffrono, gli aeroporti soffrono, i musei soffrono, i centri delle città soffrono, per cui in questi posti le librerie ancora faticano, però il resto delle librerie nel paese decisamente sta rialzando la testa, gli editori seguono e anzi fanno fino in fondo il loro grande mestiere, e il libro, ripeto, dimostra una volta di più di essere un settore vitale. Oltretutto in un momento in cui per problemi organizzativi chiaramente legati all'emergenza sanitaria anche la promozione ha qualche problema, no? Oh certo, nei periodi di chiusura tutto è stato reso più difficile. È stato più reso più difficile promuovere i libri nelle scuole e promuovere i libri nelle librerie. Ora si sta tornando a una buona normalità e l'anno scorso è stato un anno in cui il libro aveva recuperato per intero quello che aveva perduto negli anni della crisi dopo il 2011, per cui sostanzialmente stiamo ritornando su un cammino di buona crescita. Bene, bene, con queste parole che così inducono speranza dopo un diluvio di dati con il segno meno, ci incoraggiamo a vicenda. Riccardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori, grazie per essere intervenuto. Effetto Notte, buonasera. Grazie a voi. E ci fermiamo qui con Effetto Notte Estate per la prima parte. È stata un po' movimentata, d'altronde abbiamo parlato di trasporti, di persone in movimento, di merci in movimento. Torniamo insieme a raccontare il diario del giorno dopo il GR delle 19, questa sera condotto da Anna Migliorati. A più tardi. Radio 24 vi accompagna per tutta l'estate con alcune delle sue trasmissioni consolidate e qualche novità. Come sempre, tanta informazione e approfondimenti sull'attualità per essere sempre aggiornati su quello che accade in Italia e nel mondo. Ma spazio anche all'intrattenimento, alla narrazione di qualità e all'ironia. Per conoscere la programmazione speciale di agosto, potete consultare il sito radio24.it, dove potete riascoltare i nostri programmi in podcast e scoprire i podcast originali. Radio 24 è sempre con voi, anche in estate. Cosa si nasconde dietro il grande sport professionistico? Quali interessi muove? Che volume d'affari genera? Chi investe e chi fa affari o perde con calcio, Formula 1, MotoGP e con i grandi eventi sportivi? I conti dello sport prova a raccontare il dietro le quinte, i numeri dell'economia alimentata da performance e record, vittorie e sconfitte. Sono Giovanni Capuano e con i conti dello sport vi accompagnerò in questo viaggio. In onda ad agosto, tutti i sabati alle ore 14. Vi aspetto su Radio 24. Essere avere quest'estate diventa guida galattica per consumatori. 5 puntate speciali per esplorare presente, passato e futuro delle nostre abitudini di spesa. La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi rassicuranti caratteri sulla copertina. Il mondo dei consumi, oggi più che mai, ha bisogno di punti fermi. Sono Maria Luisa Pezzali e vi trasporterò in una galassia fatta di prodotti e brand, storie entrate nell'immaginario collettivo. Essere e avere. Guida galattica per consumatori. Vi aspetta il sabato alle 13.30 e la domenica alle 16. Su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Effetto Notte Estate. Le 19.15 quasi, Effetto Notte Estate, di nuovo buonasera ad Andrea Ferro, in regia c'è sempre Valeria Bernardi, in redazione resistono Valentina Ternullo e Alessandro Schirano. A questo punto facciamo il punto, perdonate la ripetizione, sulla questione dei contagi. Qualcuno ci scrive: ma smettetela, è finito tutto. Speriamo che prima o poi finisca. Lo stato attuale, ahimè, non è finita. Per quanto riguarda i dati resi noti dal Ministero della Salute, i contagi risalgono però di poco, 181, ieri erano stati 170, quindi sostanzialmente un numero stabile. Per quanto riguarda le vittime invece sono più che raddoppiate, dopo che per 4 giorni di fila erano state 5, nelle ultime 24 ore se ne sono contate 11. E poi una notizia che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice: la pandemia sarà una grande ondata non stagionale, andrà su e giù. Per la portavoce dell'agenzia, in sostanza, il Covid-19 non si comporta come l'influenza, che tende a seguire l'andamento delle stagioni. Poi, per riassumere la situazione internazionale, saccheggio da Repubblica.it: altri 57.000 contagi negli Stati Uniti, il presidente Trump assicura, ricerca sul vaccino procede in tempi record, Belgio ad Anversa coprifuoco notturno, Iran decessi fuori controllo, 235 in 24 ore, a Madrid mascherine obbligatorie anche all'aperto e si pensa ad una specie di passaporto Covid. Berlino sconsiglia viaggi in 3 zone della Spagna, in Germania la situazione è preoccupante. E ora, a proposito dell'emergenza, vi proponiamo una testimonianza particolare. Agnese Lanzetti, buonasera. Buonasera. Lei mi parla dall'Italia? Sì. Però io leggo che lei è ricercatrice a San Diego, io leggo grazie a collega Andrea Cuomo, che oggi l'ha intervistata, quindi chi oggi sul giornale ha letto appunto la sua intervista sa qualcosa già di lei, molti ascoltatori invece molto probabilmente non la conoscono ancora. Allora faccio una breve presentazione, dico anche l'età, è molto giovane, quindi si può dire, 31 anni, astigiana, si occupa di cetacei, è di biologia dell'evoluzione, conferma? Sì, sì. Ecco, però non la intervistiamo come scienziata stasera, ma la intervistiamo come cavia, perché lei ha firmato sostanzialmente un contratto per farsi iniettare il Covid. La domanda è banale, è la stessa domanda che ha posto il collega nell'intervista, però è appunto tanto banale quanto inevitabile. Perché lo ha fatto? Ma io l'ho fatto perché, prima di tutto, questo è solo una specie di appello perché questo tipo di sperimentazione possa essere fatto, e non c'è ancora niente di deciso né su come né su dove si farà. E quindi questo, secondo me, era uno sforzo minimo che io potevo fare da parte mia per cercare di dare un contributo a risolvere questo problema della pandemia, che è ben oltre le possibilità di ognuno di noi per, insomma, per cambiare le cose da soli. Ecco, ma un po' di paura c'è, d'altronde non si sanno gli effetti, non è comunque qualcosa così di normale, no? Beh, in realtà studi di questo genere, nel senso sperimentazioni di vaccini, e poi alle persone su cui sono stati sperimentati i vaccini, sono stati esposti ai virus o alle malattie, sono già stati fatti. Ovviamente c'è un rischio minimo, però io, nella mia opinione, comunque di persona che ne sa di scienza, è un rischio relativamente contenuto, ecco, rispetto per esempio al rischio di prendere il Covid nella vita di tutti i giorni. Durante il lockdown lei dov'era? Io ero ad Asti, qua in Piemonte. Le notizie che arrivavano dall'America, visto che lei lavorando là inevitabilmente ha intrattenuto delle relazioni, ci sono state delle differenze di comportamento, proprio di approccio psicologico a questo? Beh, sì, sicuramente gli Stati Uniti sono un paese molto più individualista, quindi è mancata completamente una risposta sia a livello politico che di popolazione, diciamo, unitaria. E praticamente lì, se non tocca a te o la tua famiglia o le persone che tu conosci, la cosa non esiste, e quindi ovviamente è molto diverso il modo in cui loro la vivono, è molto meno un problema del singolo, a meno che non venga appunto toccato. Però poi la situazione è esplosa in maniera tragica, quindi evidentemente sarà stata una consapevolezza che non è un problema individuale. Nelle aree in cui è esploso, immagino New York, sì. Però meno male i miei amici vivono in altri posti dove quantomeno, insomma, non hanno, diciamo, visto scene che li hanno particolarmente colpiti. Immagino che in altre aree la situazione sia stata peggiore, è anche un paese molto grande, quindi loro sono molto localisti. Quello che succede a New York a uno che abita in California non interessa. Ecco, tornando al vaccino, tornando, diciamo, al suo ruolo di cavia, come l'ha saputo? Cioè, come è arrivata una mail? L'ha saputo al bar? Voglio dire, come è arrivata la notizia? No, l'ho firmata a marzo questo appello, quindi onestamente non sono sicurissima, però mi sembra di aver ricevuto una mail su una mailing list dell'università americana che io ho frequentato, appunto a chi voleva di firmare questo appello, che comunque è stato firmato da oltre 36.000 persone nel mondo. Ecco, cambiamo un attimo argomento, visto che tra un po', meglio, forse tra 40 minuti ci occuperemo anche dell'orso M49, ma parliamo un po' del mondo animale. E i cetacei, visto che lei si occupa, come stanno? I cetacei, beh, sicuramente il lockdown a loro ha fatto piacere, essendo che una delle principali cause di morte, soprattutto delle grandi balene, è l'andare a sbattere contro le grandi navi che portano i container. E poi io studio la loro evoluzione, quindi mi occupo principalmente di studiare cose che sono già all'interno di musei. Comunque lei in qualche modo ci ha reso anche un bollettino dello stato di salute dei cetacei, dandoci buone notizie, visto che tra gli effetti, anche se è difficile chiaramente dire positivi, di quello che è accaduto, c'è anche il fatto che il nostro mare, ho potuto constatarlo anche direttamente, ha respirato un po' di più. Grazie Agnese Lanzetti. Prego. Ricercatrice a San Diego e appunto cavia del vaccino per il Covid-19. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. E allora, parlavamo della situazione nel mondo, siamo in linea con due colleghi, quindi facciamo un breve giro tra l'America e l'Europa. Iniziamo da New York, Riccardo Barlan, corrispondente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E andiamo a Parigi, Danilo Ceccarelli, la nostra voce da Parigi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, da cronista a cronisti, più o meno telegraficamente vi date il quadro della situazione nei paesi dai quali mi parlate, Barlam. Allora, New York, ieri sono stato per la prima volta dopo 4 mesi e sono tornato a lavorare nella redazione, non quindi da casa, la redazione del Sole 24 Ore a New York è a Lower Manhattan, vicino a 200 metri da Wall Street, nel quartiere finanziario vicino a Ground Zero, dove c'erano le torri gemelle. E la sensazione è proprio di una città un po' morta, nonostante sia nella quarta fase entrata a New York, è un po' triste anche perché nel palazzo del lavoro eravamo in 3 praticamente, io, il portiere e un altro collega. Quindi è un po' così, è un bellissimo momento per visitare New York, se possibile all'Europa, perché non ci sono turisti, non c'è la solita folla di sempre. Eh sì, effettivamente è così, lo dicevamo a proposito di Venezia. Prego, continua, grazie. Nel paese, in 2 secondi, la situazione è sempre molto delicata. Come sapete, si è spostato il centro della pandemia dallo stato di New York e la Tri-State Area, quindi New Jersey, Connecticut e New York State, si è spostato da qualche settimana, ormai da 8 settimane, negli stati del sud e dell'ovest. E ci sono dei primi segnali positivi nelle ultime ore di diminuzione di casi in Florida, in California e in Arizona, e restano sempre alte le morti. Nell'ultimo giorno c'è stato, nelle ultime 24 ore, i dati della Johns Hopkins University dicono che ci sono stati il 9% di nuovi casi, un aumento del 9% rispetto agli ultimi 15 giorni, e rispetto agli ultimi 15 giorni i morti, che aumentando i ricoveri purtroppo aumentano e sono... la percentuale di aumento negli ultimi 2 settimane sono più 49% oggi, quindi questa è un po' la situazione ancora delicata, diciamo. Certamente, inequivocabile dai dati che ci hai appena fornito. Danilo Ceccarelli, Parigi, com'è la situazione? Ma qui in Francia in generale in questi ultimi giorni il coronavirus ha registrato un aumento importante della circolazione in diverse zone del paese, dove ormai si contano più di 3.200 decessi dall'inizio della crisi. Le autorità sanitarie hanno individuato in tutto il territorio 223 focolai. Tra le zone più colpite c'è la regione della Nuova Aquitania, a sud-ovest, con 9 cluster, un'altra quindicina di cluster nei paesi della Loira. Quindi le autorità, ma anche il governo, stanno aumentando l'attenzione. Ormai vengono effettuati circa, secondo quanto dichiarato dal ministro della salute Olivier Véran, vengono effettuati circa 500.000 tamponi ogni settimana. Il governo, ricordo, che punta ad arrivare a 700.000, che è un obiettivo un po' difficile da raggiungere vista la situazione e soprattutto viste le modalità con cui vengono effettuati questi tamponi. Infatti, fuori dai laboratori, camminando qui in giro per Parigi, mi è capitato di vedere lunghe file con persone che cercano di farsi testare. Ormai per effettuare i tamponi vengono impiegati studenti di medicina, personale paramedico, anche pompieri, quindi la situazione, insomma, si cerca di correre ai ripari, ma in modo con ovvie problematiche. Il primo ministro Jean Castex ha comunque cercato un po' di calmare gli animi, ricordando che aumentano i casi, ma la media resta inferiore rispetto agli altri paesi. Importante che Castex ha poi ricordato che ha poi voluto escludere un ritorno alla quarantena come si è vista durante il picco della crisi, perché ovviamente avrebbe delle ricadute troppo forti da un punto di vista economico. Il primo ministro ha quindi parlato di una quarantena a livello locale che potrebbe essere che potrebbe essere applicata nel caso di una seconda ondata. Ecco, scusa se ti interrompo, ma sono un po' incuriosito dal fatto della comunicazione mediatica dell'emergenza rispetto all'Italia, sia negli Stati Uniti che in Francia. Cosa c'è di diverso? In particolare, anche lì i virologi sono diventati un po' delle star mediatiche. Iniziamo da Barlam, New York. Ma sì, negli Stati Uniti avrete conosciuto in questi mesi la figura di Anthony Fauci, questo signore. Però solo lui rispetto alla nostra galleria, diciamo così. Ce ne sono anche altri, ma lui è il più autorevole. Oggi peraltro, e sapete anche che spesso le cose che lui dice, una specie di grillo parlante di Pinocchio, siccome il presidente americano un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra, spesso lui, suo malgrado, diventa un po' il grillo parlante, dice delle cose che mettono in cattiva luce Trump, perché dà le evidenze scientifiche della cosa, e quindi questa cosa. Però si scontra, come succede anche in Italia, con altri medici, scienziati, che invece dicono cose opposte. No, direi di no. Non direi c'è di questo no, dibattito. Ci sono suoi collaboratori lì nella parte, diciamo, dell'amministrazione americana che lavorano con lui. E mi sembra da quel punto di vista c'è abbastanza una comunità scientifica che procede sulle stesse onde. Qui in America, sapete, la comunicazione è uno dei motivi per cui la crisi del coronavirus è tornata fortemente alla ribalta, proprio perché c'è questa mancanza di unitarietà sulla comunicazione. Trump fino a una settimana fa non si è mai fatto vedere con una mascherina. E una settimana fa ha raccomandato per la prima volta di fare attenzione al distanziamento sociale e di indossare le mascherine. Ieri, per dire, ha detto ai governatori che hanno deciso di nuovo il lockdown, che devono riaprire gli stati. Capite che le persone poi, certo, si comportano, certo, Seguendo gli indirizzi delle persone che stanno ai posti, ai vertici delle istituzioni, e qui è un po' questo è il problema americano. Ecco, quindi andando in giro bisogna difendersi dal virus che può avere tanti aspetti. In tanti stati sta succedendo questo, che la totale disattenzione a queste misure precauzionali ha fatto scoppiare questi casi con persone anche che stanno morendo in queste ore. Ecco. Purtroppo leggiamo. Ceccarelli, Parigi, com'è la situazione sotto il profilo mediatico? Hai un minuto. Beh, qui il dibattito si è concentrato molto nelle scorse settimane sull'utilizzo della clorochina per il trattamento del coronavirus, difesa a spada tratta dal virologo marsigliese Didier Raoult, che è praticamente andato contro la comunità scientifica nazionale ma anche internazionale. Un paradosso: Didier Raoult fa parte di quel consiglio scientifico che appunto sostiene, consiglia il presidente Emmanuel Macron nella gestione della crisi. Lo stesso Macron si è trovato quindi un po' al centro di due fuochi e si è mostrato anche, devo dire, abbastanza disponibile nei confronti di Raoult. Ricordo che ha effettuato anche una visita nei suoi laboratori a Marsiglia, quindi ha cercato di tenere un po', il presidente ha cercato di tenere un po' aperte tutte le strade, non si è voluto troppo sbilanciare. Comunque, se dovessi individuare un po' una figura preponderante nel mondo scientifico, direi Raoult, visto le polemiche, i dibattiti che hanno provocato le sue posizioni. Grazie a Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Grazie Riccardo, chiaramente ti coinvolgeremo a ritmi regolari in Effetto Notte Estate. E grazie a Danilo Ceccarelli, la nostra voce da Parigi. Grazie Danilo, anche con te chiaramente l'appuntamento è rimandato alle prossime puntate di Effetto Notte Estate. Buonasera. Grazie a voi, buona serata. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto Notte Estate. 19:32, 46 secondi, e ora filiamo fino alle 20 e riprendiamo parlando di un argomento molto delicato. Faccio una premessa, è diciamo così, forse superflua, però ritengo alla fine inevitabile. Quando parliamo di poliziotti e carabinieri parliamo di categorie che per la stragrande maggioranza degli appartenenti sono categorie che lavorano per la comunità, che spesso rischiano anche la propria incolumità per garantire l'ordine, la sicurezza. Quante storie, ahimè, abbiamo raccontato negli anni di poliziotti, carabinieri che hanno perso la vita magari per aiutare chi era in difficoltà, per sventare un crimine. Chiaramente è lungo l'elenco e non è il caso chiaramente di soffermarci su un'evidenza di questo tipo. Purtroppo però succede, succede raramente, però succede che qualcuno che indossa la divisa deraglia rispetto appunto ai binari della retta via. Ieri abbiamo parlato dell'inchiesta di Piacenza, la caserma dei carabinieri, purtroppo finita al centro dell'attenzione della cronaca per i presunti, dobbiamo ancora parlare così perché poi dovrà esserci un processo, comunque presunti abusi commessi da un gruppo di carabinieri, anche nei capi di imputazione ci sono anche reati molto gravi. Oggi diciamo l'approccio a questo tema arriva da un'agenzia che è stata battuta stamattina abbastanza presto dall'ANSA e praticamente riporta lo sfogo di Eva Micula, che era la compagna di Fabio Savi, il cosiddetto lungo della banda della Uno Bianca. Chiaramente molti di voi sapranno cos'era la banda dell'Uno Bianca, è una banda composta prevalentemente da poliziotti che tra il 1987 e il 1994 ha spadroneggiato tra l'Emilia, sostanzialmente quasi tutti i crimini sono stati commessi in Emilia eppure nelle Marche settentrionali. Bene, Eva Micula stamattina attraverso l'ANSA, attraverso una lettera che ha mandato all'ANSA, sostanzialmente ha detto che lei è vittima sostanzialmente del suo passato, che c'è un pregiudizio nei suoi confronti, che sostanzialmente è stata abbandonata dallo Stato. Siamo in linea con Rosanna Zecchi, che è la presidente dell'associazione Familiari Vittime della Uno Bianca. Buonasera Rosanna Zecchi. Buonasera. Allora, innanzitutto ricordo perché lei, ahimè, si trova in questa condizione. Suo marito si chiamava Primo Zecchi. Ecco, certo. Ci può ricordare cosa gli accadde? Niente, mio marito stava aspettando noi, me e mia figlia, che tornavamo da una gita in Svizzera, che è stata organizzata dalla ditta dove lavorava mia figlia, e ha visto fare una rapina, ha visto arrivare due con una macchina, e si sono messi il passamontagna, sono andati fuori con il pistola in mano, e lui era lì fermo che aspettava noi, che arrivasse il pullman dalla Svizzera, e li ha proprio visti che rapinavano, andavano contro a un signore con un borsello e volevano il borsello. Lui ha detto: ma state scherzando, non mica niente dentro il borsello. Dopo si è poi saputo che loro l'avevano scambiato per il tabaccaio, che c'era una tabaccheria all'angolo, proprio alla periferia di Bologna. E di conseguenza mio marito ha sentito, questo ha detto: ma andate via, che io non ho mica niente dentro il borsello. E però loro insistevano, hanno tirato fuori le rivoltelle e lui è scappato verso la tabaccheria e loro gli hanno sparato alle gambe. Suo marito ha visto però, tutto, in sostanza la colpa di suo marito è stata quella di aver visto tutto. E mio marito ha visto tutto. A questo punto è sceso dalla macchina, invece di partire, è sceso dalla macchina per prendere il numero di targa, perché dice: così almeno riesco a fare qualcosa. La signora che era alla finestra diceva: scatti, perché lui continuava a dire: chiamate 113 perché c'è una rapina in atto. E questa signora continuava a dire, che me l'ha detto tante volte, sceglielo. Scappi, che stanno tornando indietro, dice: non vorrei che loro erano entrati in tabaccheria. Lui ha detto: prendo il numero di targa e vado via. Solo che non ha fatto in tempo, perché quando loro sono usciti lui si è chinato nella macchina, ma loro l'hanno visto e di conseguenza l'hanno tirato fuori dalla macchina. Lui ha cercato di scappare e le hanno sparato a colpo in testa e l'hanno ucciso. Perciò per 600.000 lire, e ribadisco 600.000 lire, hanno ucciso e ferito un altro signore che non c'entrava niente come mio marito. Almeno mio marito aveva cercato di prendere il numero di targa, questo signore invece non l'aveva dato il borsello perché non aveva niente, lui non c'entrava. Ha letto lo sfogo di Eva Micula? È partito solo per fare capire, è partito solo tutto questo da una denuncia che il tabaccaio di via Zanardi aveva fatto alla Polizia di Stato. che in un borsello 6 milioni, mi sembra, no, 6.000 euro, non mi ricordo. No, beh, bene. Non c'era ancora, parliamo di lire chiaramente. Certo. Lire, ecco, 6.000, 6 milioni, 6 milioni, 6 milioni, 6 milioni, e di conseguenza era partito tutto da lì, ma non, Roberto Sapi aveva visto la denuncia, ma non conosceva il tabaccario. Quindi ecco, c'è questo retroscena, certo. Era convinto, certo, fosse, certo, quel signore che girava con il borsello. Certo, lui, certo, ovviamente, ha fatto questa denuncia e purtroppo è partito tutto. Certo. Dunque, io ho visto la lettera di Amicola, come dice lei, questa mattina, e io sono rimasta sbalordita, perché questa, dopo 25 anni, ribadisco, sono già 25 anni, che 26 quasi, che l'hanno arrestato alla banda, ha ancora delle velità di venire a chiedere chissà che cosa allo Stato italiano. Perché voglio dire, lei dice, sono stata io a far, no, lei stava scappando perché l'hanno presa a tromezzo con Fabio Savi, che stavano cercando di espatriare. Sì, quindi lei non era una vittima, diciamo così, della banda, no, evidentemente. No, assolutamente. Lei magari dopo è stata una collaboratrice di giustizia, ma dopo che l'avevano presa, ma prima no, assolutamente. Poi voi siete intervenuti recentemente anche a seguito di alcuni permessi premio, no? Sì, sì, siamo molto arrabbiati perché già uno della banda della Uno Bianco, Marino Pipinti, è già uscito, è già un uomo libero ed aveva l'ergastolo anche lui perché ha ucciso una persona. E Alberto Savi aveva chiesto anche lui permesso, aveva chiesto la grazia di venire fuori, cioè a Natale lui era fuori che brindava con la sua amica, non so chi fosse, una ragazza dentro mar. Perciò voglio dire, questi magistrati di sorveglianza, prima di dare tutti questi permessi premium e quant'altro, ci dovrebbero pensare un po'. Però Rosanna Zecchi, io la ringrazio per la sua testimonianza, ci tenevo ad averla in diretta perché chiaramente quando si parla di queste storie poi per renderle nella loro drammaticità ci vuole la voce delle persone che hanno subito appunto la violenza, e lei con la sua testimonianza ci ha reso purtroppo il quadro di quello che avveniva ormai appunto 25 anni fa e anche un po' di più in un territorio del nostro paese. Grazie per essere intervenuta stasera. Prego. Effetto Notte Estate. Gli altri ospiti per trattare questo tema molto delicato sono Roberta Bruzzone, criminologa, buonasera. Buonasera a voi. E poi c'è il sindacalista del SILP CGL, Daniele Tissone, lei è segretario nazionale, buonasera. Buonasera. Allora, chiaramente è difficile mettere insieme storie chiaramente completamente diverse rispetto a Piacenza e alla Uno Bianca, però c'è un denominatore comune che io inseguo. In buona sostanza, a un certo punto chi porta la divisa inizia a subire quello che è un delirio di onnipotenza, impunità. C'è un film celeberrimo, Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, che in qualche modo racconta questo meccanismo psicologico. Parliamo di un film di 50 anni fa, direi. Ecco, Roberta Bruzzone, perché a un certo punto nella testa di un poliziotto, di un carabiniere, scatta la voglia di trasgredire, di sostanzialmente fare il bandito con la divisa? Guardi, lei sta, diciamo, ipotizzando che questo tipo di chiave di lettura sia intervenuta successivamente, quando questa persona già una divisa in qualche modo la indossava. E c'è anche un'altra chiave di lettura, però, da presentare, ossia è anche possibile che questa persona abbia scelto una carriera all'interno delle forze di polizia perché già possedeva dei tratti di personalità, diciamo, malevoli, magari orientati verso il versante della psicopatia, e che quindi una divisa addosso è in qualche modo un simbolo di potere che può attrarre anche personalità già deviate in partenza. Cioè, sostanzialmente, credo, a un certo punto o faceva direttamente al criminale o faceva al poliziotto carabiniere, mi vuol far capire. Il problema sa qual è? Che ci sono soggetti che hanno dei tratti di personalità assolutamente disfunzionali, orientati proprio alla ricerca di potere e soprattutto di un potere arbitrario da poter esercitare nei confronti degli altri. Se un soggetto è già portatore di un tratto del genere, come succede nei disturbi antisociali, in alcune forme di disturbi narcisistici molto seri, è chiaro che io, con questo di quei soggetti, sceglie delle professioni che gli consentono di avere un maggiore potere sugli altri. Purtroppo tra queste ci sono sicuramente quelle afferenti al mondo delle forze dell'ordine, della magistratura, della medicina, tutto quello che in qualche modo già di per sé veste un io fragile e lo veste di un potere che può essere assolutamente abusato. Tissone, lei come rappresentante sindacale la coinvolgo su questo fronte. Ecco, e chiaramente qui parliamo di casi isolati, ci mancherebbe. Mele marcia, devo dire, questa espressione un pochettino a volte infastidisce, perché se ci sono mele marce vuol dire che forse prima che si guastassero si poteva fare qualche cosa. Appunto, io voglio venire qui con lei su questo punto. Ecco, c'è un problema però di controllo del personale. Io ho fatto tanti anni il cronista di Nera, raccoglievo le testimonianze dei vecchi marescialli che raccontavano che una volta quando un agente si presentava magari in servizio con una macchina, diciamo, che non era completamente compatibile col suo stipendio, scattavano immediatamente delle curiosità particolari. Ecco, si è persa un po' questa strada? Beh, tanto la ringrazio, perché lei ha il tema è quello delle devianze. Lei in premessa giustamente ha fatto riferimento ai tanti miei colleghi, non solo della Polizia di Stato, ma anche dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che svolgono la propria attività, il proprio lavoro al servizio dei cittadini. Io credo che i due fatti di cui stiamo parlando siano entrambi fatti gravi, perché coinvolgono appartenenti delle forze di polizia che vanno a intaccare la fiducia dei cittadini e negli apparati di sicurezza, e quindi anche nelle istituzioni dello Stato. Il tema della devianza penso che esista in ogni categoria di lavoratori, ma rispetto ai due fatti che lei cerca di mettere in un parallelismo, direi che l'analogia di fondo è che in entrambi i casi si è purtroppo riscontrata una difficoltà, come lei ben diceva, nel far prevenire alla luce, non dico preventivamente, comunque episodi gravissimi e reiterati nel tempo. Quindi l'interrogativo è proprio questo, quello che emerge: perché se si forma una devianza, ma soprattutto quando una struttura devia, chi dirige non sia stato in grado di fermarla. Il tema è che dalle prime risultanze emergerebbe appunto una situazione di degenerazione criminale che avrebbe interessato buona parte dei militari in servizio in questa stazione. Quindi se siamo meno in presenza anche qui di un dato permanente, allora dobbiamo porci la domanda se vada rivisto il modo anche di gestire le strutture. Io credo che qualche elemento, quando siamo in presenza di avvisaglie, di elementi sintomatici, come possono essere questi, è chiaro che le indagini poi ci diranno, dimostreranno, ci porteranno i fatti per quello che sono, e che possono fare sospettare appunto delle criticità. E qui bisogna anche capire quali accertamenti che sono indispensabili bisogna fare. Quindi è fondamentale importanza, credo, che ogni amministrazione corpo che abbia, e in molti casi ci sono al suo interno, un efficiente organismo che è deputato al controllo, che non sia meramente formale dell'attività svolta da ogni singolo ufficio, grande o piccolo che sia. Troppo spesso purtroppo accade che in certi casi si agisca ex post e non ex ante, attraverso la prevenzione e la presenza di chi ha responsabilità. Per rispondere alla sua domanda, che cosa fare? Beh, io credo che la trasparenza in ogni ufficio, in ogni pubblico ufficio in generale, sia inevitabile. Evitare gli isolamenti, puntare appunto su questi aspetti, con un management moderno che sia anche capace di gestire meglio il personale. La maggiore formazione che conduca anche a un reale controllo sociale del gruppo, in questo senso anche sull'etica del servizio. Io penso che noi dobbiamo pensare sempre di più in futuro a un modello che sia una casa di vetro al servizio del cittadino, questo per tutti coloro i quali operano all'interno della pubblica amministrazione. Beh, certo, sì, l'espressione a casa di vetro è ricorrente purtroppo, però poi ahimè contiamo questi fatti di cronaca. Bruzzone, a un certo punto diventa una sfida il poliziotto che in realtà è delinquente, chiaramente stiamo parlando in termini generali, attenzione, non voglio fare riferimenti all'attualità, poliziotto, il carabiniere che in realtà è un delinquente, sfida il suo apparato a un certo punto, no? Perché in realtà, come spesso è accaduto, insomma, qui stiamo mettendo in parallelo due vicende che per alcuni aspetti si avvicinano, anche soprattutto in questo specifico punto, perché effettivamente proprio l'appartenenza a quella particolare amministrazione era in qualche modo lo strumento che loro utilizzavano per ripararsi dai rischi di venire scoperti. Quindi in realtà non è tanto una sfida nei confronti dell'apparato, ma un rifugiarsi all'interno dell'apparato, conoscendone bene i meccanismi, come una sorta di organismo parassitario, per cercare in qualche modo di sfruttare quella condizione e nel contempo di in qualche modo di evitare di essere individuati. Consideriamo che nella vicenda Savi, dei fratelli, insomma, di Uno Bianca, così come in quella di Piacenza, io credo che la questione si allargherà notevolmente. Su Piacenza già la linea di comando provinciale è comunque interessata da una serie di approfondimenti. E ricordo anche che contestualmente altra vicenda, a mio modo di vedere, sconvolgente, ossia il rinvio a giudizio di 3 carabinieri per l'omicidio di Serena Molicone, avvenuta ad Arce nel 2001, che mi immagino molti di voi ricorderanno. Insomma, certo, è un momento certo. Veramente molto delicato per l'arma, ma anche lì parliamo di una caserma, parliamo dei soggetti che all'epoca gestivano la caserma e parliamo, secondo l'ipotesi chiaramente della procura di Cassino, parliamo di una gestione scellerata di quella caserma e proprio utilizzata per cercare non solo di proteggersi rispetto alle responsabilità che la procura in qualche modo ha individuato, ora vedremo cosa ne ci dirà la Corte d'Assise, però nell'ipotesi accusatoria c'è proprio l'utilizzo della divisa per cercare di scampare chiaramente alle responsabilità per quanto è accaduto a quella certo, povera ragazza. Certo. E ripeto, siamo così sicuri che siano sempre solo mele marce. È questo, infatti. Sia un sistema questo, da rivedere seriamente sotto diversi profili. È questa, perché questa. Io temo che sia più questo il punto ad oggi. Sì, beh, quello che diceva anche in qualche modo Tissone molto telegraficamente. Queste storie però fanno molto, molto, molto male a chi invece svolge, lo ricordiamo, è la stragrande maggioranza, a chi svolge con sacrificio il mestiere, cioè il rischio della delegittimazione, della strumentalizzazione in agguato in questi casi. Sì, anche perché non ci sono delle oggettive giustificazioni sulla devianza, sul fatto anche che uno possa comportarsi in maniera antitetica rispetto al giuramento che ha prestato e rispetto a quello che è il suo compito sociale di esercitare una professione di aiuto e al servizio del cittadino. Ripeto, bisogna fare in modo che ogni tipo di attività, e soprattutto le nostre, non diventino mai autoreferenziali. Quindi serve anche un'opera formativa all'interno dei nostri uffici che, come dicevo prima, si basi anche su quella che è l'etica del servizio per un reale controllo sociale del gruppo. Questo anche può fare la differenza, perché questo può essere uno dei migliori antidoti per evitare situazioni come queste deprecabili rispetto anche alle vittime, rispetto alle persone che che poi ne pagano le conseguenze. Grazie Daniele Tissone, segretario generale del SILP CGL, uno dei sindacati di polizia. Grazie, buonasera. Grazie a voi. E grazie a Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. Grazie anche a lei. Grazie a voi, buonasera. Bene, ora voltiamo pagina e questo era un argomento ovviamente un po' delicato. Io penso che di qui alla fine di agosto avremo modo di tornare a parlare di queste cose, anche magari inseguendo gli sviluppi dell'inchiesta di Piacenza. E ora cambiamo completamente argomento, parliamo di alberi che cadono nel cuore delle città. L'episodio di ieri ha riportato, diciamo così, alla ribalta un'emergenza che in realtà va avanti da tempo. Gli ospiti di questa sessione, per così dire, sono Sabrina Diamanti, presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali, presidente nazionale. Buonasera Sabrina Diamanti. Buonasera. E Lorenzo De Cicco, cronista del Messaggero. Buonasera anche a te. Buonasera. Allora, non sono galante, parto da te semplicemente perché come cronista ci devi così ricordare abbastanza telegraficamente, se possibile, quello che è accaduto ieri nel cuore di Roma, Piazza Venezia. Sì, 5:30 di pomeriggio, quindi proprio nell'ora di punto in cui centinaia di macchine vorticavano intorno vicino all'altare della patria, tra l'altare della patria e il Campidoglio, un pino gigante di quasi 20 metri si abbatte sulla carreggiata, una Mercedes nera in corsa viene completamente travolta, la conducente, una donna di 51 anni, viene a fatica estratta fuori dalle lamiere ed è stata portata d'urgenza al San Giovanni, per fortuna insomma in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Certo, ha avuto un trauma cranico abbastanza serio, sono in corso ovviamente e altri esami. Questo, diciamo, è quello che è avvenuto ieri. È l'ultimo episodio, insomma, chi abita a Roma purtroppo legge queste, diciamo, situazioni simili con cadenza molto frequente e insomma il problema è quello della scarsa manutenzione e di un piano di abbattimento di alberi molto molto datati Poi ci arriviamo e circoscriviamo la questione a Roma, però non accade solo a Roma, accade anche altrove. Leggevo nelle cronache, se non sbaglio, della Nazione di Firenze che è accaduto qualcosa di questo genere, magari in maniera un po' meno eclatante, dalle parti di Sesto Fiorentino proprio ieri. Ecco, Sabrina Diamanti, visto che accade spesso, io mi chiedo, io in questa trasmissione cerco di interpretare l'uomo della strada, essere un po' in qualche modo il suo testimonial. Ecco, una volta queste cose accadevano molto molto di rado, ora invece sono piuttosto frequenti, perché? Sì, le motivazioni sono parecchie. Sicuramente uno dei motivi principali è che purtroppo i nostri viali alberati a livello nazionale sono più o meno coevi, quindi sono stati messi a dimora più o meno tutti nello stesso periodo e naturalmente in condizioni sia ambientali ma anche proprio di diciamo pressione antropica completamente diversa. Ecco, da a quale attuale. Periodo ci riferiamo, giusto per essere precisi? Ma storicamente ora non volevo pensare a Torino, quindi diciamo ormai sono quasi secolari, quindi un centinaio, un'ottantina di anni fa, le più grandi messe a dimora, quindi la realizzazione dei nostri viali storici più o meno risale a quel periodo. Poi da lì tanto altro verde urbano, alcuno anche precedente, i nostri parchi sono anche più datati, però diciamo la situazione più a rischio, come è stato detto anche da voi fino a questo momento, è quello naturalmente dei viali, perché nei viali c'è stata proprio una trasformazione dell'uso di questi viali. Siamo passati da mi lasciami passare il termine le carrozze a un traffico veicolare pesante, continuo, e quindi a una riduzione degli spazi a disposizione di queste piante continua, con tutta l'altra serie di attività che gira intorno a queste povere piante, dagli scavi per i servizi, quindi le interferenze con tutti i servizi che sono naturalmente di nostra prima necessità, però ci dimentichiamo che anche l'albero contribuisce molto molto molto attivamente alla nostra salute, quindi forse dovrebbe essere quello, no? Il bene di prima necessità a cui pensare in alcune situazioni. Pensare significa sostanzialmente controllarli, curarli, mantenerli? Beh, sicuramente le problematiche sono due. Una è un errore di progettazione che non posso naturalmente attribuire a quando sono stati appunto progettati questi viali, perché le condizioni sono mutate. Però vediamo anche errori nella progettazione del verde attuale. E l'altra è la capacità di gestione e di conservazione del nostro verde storico, quindi bisogna naturalmente cominciare a cambiare paradigma e iniziare a investire seriamente nel controllo e nella manutenzione di questi alberi. Ma se no ci sono investimenti, diciamo, io non leggo tanto di queste cose in giro, no? No. Esatto, mi provochi. Voglio dire, nel senso che poi è sempre una questione di investimenti e anche così, è una questione politica sostanzialmente, anche di priorità. Evidentemente questa non rientra nelle priorità delle amministrazioni. Lorenzo De Cicco, a Roma l'emergenza è conclamata, come peraltro dicevi prima che ti interrompessi, già da tempo, no? Ma sì, sono anni, anche perché, come anche penso la Presidente dell'Ordine potrà confermare, insomma, gli alberi di Roma sono molto datati, oltre 50.000 sono diciamo vicini al secolo di vita, quindi alcuni, molti lo hanno anche superato, quindi sono arrivati diciamo a fine vita, così insomma dicono anche gli esperti. Circa un anno fa, un po' di più, a febbraio del 2019, la Sindaca Gerraggi annunciò un piano straordinario di abbattimenti proprio per limitare i rischi, l'avrebbe dovuto finanziare il governo, nel frattempo non è arrivato un euro, quindi quel piano lì diciamo è morto apparentemente, ma anche la manutenzione ordinaria a naspa poi per i ritmi lentissimi della burocrazia insomma dell'amministrazione, con appalti che non vengono assegnati perché rimangono appunto impaludati negli uffici, a volte per anni. L'ultimo appalto per le cotature, cioè una roba assolutamente normale, ci sono voluti più di due anni di tempo tra la progettazione e l'aggiudicazione. È ovvio che poi in questa situazione, in questo lassismo, la situazione continua a peggiorare. Un'altra cosa importante da dire, anche per ricollegarmi a quello che diceva prima la Presidente dell'Ordine degli Agronomi, è che appunto servirebbero controlli approfonditi. Di fatto quasi sempre, almeno a Roma, vengono fatti controlli visivi, cioè controlli a occhio. Lo stesso albero che è precipitato ieri sì, abbiamo letto, Venezia, abbiamo letto. Era stato, io ho parlato ieri sera con l'agronoma proprio che l'aveva controllato due abbiamo anni letto, fa e abbiamo detto, letto. Così insomma, l'ha controllato soltanto a occhio mentre sarebbero serviti controlli. Beh, non è completamente rassicurante, Sabrina Diamanti, no. Il problema non è che poi uno dice vabbè, visto che sono un rischio, la scelta diventa radicale, tagliamo. Oh, ecco, questo sicuramente è un passaggio che va assolutamente evitato. Il progetto deve essere contemplato in maniera accurata, quindi un progetto di sostituzione deve essere anche studiato, non può dire prescindere, eliminiamo tutto, anche perché l'impatto sul cittadino è veramente pesante, cioè noi siamo abituati a vedere, oggi passavo, sono proprio qua a Roma, quindi stavo attraversando alcuni viali, questi platani maestosi, anche questi con tante problematiche, molte carie e quant'altro, ma prima che l'occhio umano si possa nuovamente godere di quel paesaggio, di questo panorama anche urbano, passano tanti anni, quindi un percorso di sostituzione deve essere un percorso fatto in maniera oculata dalle amministrazioni, che devono naturalmente fare un programma di concertazione con i cittadini e spiegare e prepararli a quello che sarà, però ci vuole serietà. E ci vogliono anche quattrini, alla fin fine. Ci vogliono quattrini, però uno deve sempre mettere sul piatto qual è la cosa più importante. Beh, certo, la politica. Quindi cominciare a imparare anche a investire nel verde, non soltanto nutrirsi di slogan quando il verde è utile per motivi, diciamo. Chiarissima. Grazie Sabrina Diamanti, presidente nazionale dell'Ordine degli Agronomi e Forestali, grazie. Grazie a voi, grazie a voi e buona serata. Grazie a Lorenzo De Cicco, cronista del Messaggero, che avevamo già sentito l'estate scorsa e che coinvolgeremo nuovamente in Effetto Notte Estate, magari per non parlare necessariamente di alberi. Grazie anche a te. Grazie a voi. Effetto notte estate. Sono le 20:50 secondi e a questo punto facciamo il punto sulle notizie del giorno, una sorta di breve GR. Il 15 ottobre è la data di proroga dello stato di emergenza che dovrebbe essere indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. Il testo è ancora in fase di limatura, ma l'orientamento è indicare la metà di ottobre come data di scadenza, pur in assenza del vincolo normativo, ha detto Conte parlando in aula, ritengo doveroso condividerlo con il Parlamento. Tre emigranti sudanesi sono stati uccisi, altri quattro sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Qums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia Costiera Libica. Lo ha reso noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, riferendo che le autorità locali hanno iniziato a sparare quando alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga. La pandemia di Covid-19 sarà una grande ondata non stagionale, andrà su e giù, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sollecita l'applicazione di misure per rallentare la trasmissione che si sta diffondendo nei raduni di massa. Da domani a Roma al via i test su base volontaria ai viaggiatori di ritorno in pullman da paesi a rischio. A fine agosto riunione del Comitato Tecnico Scientifico per una valutazione finale, ma la priorità resta quella di riaprire tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'annuncio arriva dal Ministro della Salute Speranza. Nella sua informativa la Ministra dell'Istruzione Azzolina ribadisce: a settembre la scuola riparte, lavoreremo per la riduzione del numero di alunni per classe. Basta con le classi pollaio. Infine, sport, calcio, Serie A, anticipi della penultima giornata del campionato. Si sta giocando Parma-Atalanta, risultato ancora sullo 0-0. Alle 21:45 al Meazza l'Inter ospita il Napoli. E ora, come preannunciavamo all'inizio, ci occupiamo, diciamo, di un personaggio di questi giorni, queste settimane, ma in realtà non solo, perché ne parlammo già l'estate scorsa. Parliamo di M49, meglio noto anche come Papillon, per il fatto che appunto alla fin fine cercano di rinchiuderlo, ma alla fin fine scappa sempre. Ne parliamo con Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Buonasera. Buonasera. E ne parliamo con Luigi Boitani, che è professore di zoologia al Dipartimento di Biologia e Biotecnologia all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora Fugatti, dov'è ora M49? Ci faccia il cronista della situazione e ci aggiorni appunto sulla sua posizione e su quello che sta succedendo. Buonasera. Lo stato attuale si trova nella montagna sopra Trento, si chiama la Marzola, e diciamo che tra ieri e oggi non ha fatto grandi movimenti, è fermo sostanzialmente, e lo stiamo monitorando e vediamo gli spostamenti dei prossimi. Ecco, dico una banalità, non siete nelle condizioni per poterlo in qualche modo catturare, no? No, in questa fase no, perché occorre che si... diciamo che rimanga più giorni su un posto per poterlo eventualmente procedere alla cattura, diciamo troppo poco il tempo che è fermo in un luogo. Boitani, come va a finire questa storia secondo lei? Ah, non lo so, certamente è un grande personaggio, io ho una simpatia, però al di là della simpatia per la bestia, io credo che bisogna avere un atteggiamento molto laico e molto freddo, perché poi la coesistenza tra uomo e animali selvatici deve passare attraverso la razionalità, oltre che alle emozioni che riescono a suscitare. Quindi questo è un animale che ha dato in passato dei segnali chiari di potenziale pericolosità, diciamo così, e quindi fanno molto bene alla provincia di Trento adesso a seguirlo nel dettaglio, cioè ora per ora, per raccogliere altri elementi e per prendere poi una. Ecco, non è escluso che debba essere ricatturato. Ecco, Fugatti, lei ha detto siamo un po' pronti a tutte le situazioni, no? Noi siamo pronti a ricatturarlo per il semplice motivo che poi non è semplice, purtroppo, ed è la verità, certamente. Che nei periodi in cui lui, diciamo, era libero, ha ammazzato tanti animali di montagna, tanti animali di allevamento, è entrato all'interno di stalle, all'interno di malghe, e non è normale che un orso entri dentro le stalle, dentro le malghe, e che quindi abbia questa, diciamo, frequentazione abituale di questi spazi, questa confidenza. Certamente un orso queste cose non le fa, e quindi, siccome è un orso che è pericoloso per quello che fa, deve essere catturato anche a tutela dell'incolumità pubblica. Per questo abbiamo agito in passato e per questo agiremo anche in questa situazione. Ecco Boitani, ma sta cambiando qualcosa al di là di M49, cioè gli orsi in qualche modo? Qualcuno dice che a seguito del lockdown, e quindi il fatto che il territorio era, diciamo, più sgombro, si sono tendenzialmente più avvicinati alle zone abitate, e c'è la possibilità che questo diventi, al di là delle vicende di M49, diventi un'emergenza un po' più generalizzata, chiaramente limitatamente a certe aree del territorio? Questa è assolutamente una fandonia, non esiste nessuna informazione, nessun dato, nessun segnale indiretto che supporti un'affermazione. Quindi questo è semplicemente un modo per caricare emotivamente la situazione. Sotto profilo, dal suo osservatorio, non ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere. Possiamo... Ma assolutamente no, il Trentino sono parecchi anni che ha cominciato questa operazione di reintroduzione. Hanno un centinaio di orsi, questo M49 è l'unico che ha fatto questa bella mostra di sé. Mi sembra un argomento, diciamo così, su cui c'è molto poco da discutere, infatti parlano molto chiaro. Ecco Fugatti, rischia di diventare anche un po' un problema politico? Eh, devo dire che in Trentino, che è poi la realtà che vive questa situazione, c'è una sostanziale condivisione in linea di massima tra la popolazione sul fatto che gli orsi pericolosi devono essere catturati, sul fatto che il progetto di reintroduzione dell'orso è andato bene fino a un certo punto, poi oggi sono troppi, al di là di chi si fosse favorevoli o meno all'inizio, e lasciamo perdere, questa è una questione politica, lasciamo perdere questo, il tema è che oggi il numero di orsi è eccessivo rispetto alla capacità di sopportazione di un territorio come il nostro, che è un territorio dove la montagna è abitata, dove ci sono culture agricole, e allora finché erano 40, 50, 60, la situazione era gestibile. Adesso sono 90-100 in alcune, concentrati anche in alcune zone, e quindi la convivenza diventa oggettivamente impossibile, al di là che uno sia favorevole o meno al progetto. Oggi questi numeri dicono che non è possibile, e se poi accadono fatti per cui un orso diventa, diciamo, pericoloso, è chiaro che la gente poi comincia a preoccuparsi. Quindi politico a livello trentino no, perché c'è una sostanziale condivisione che il progetto comunque è andato un po' oltre, abbastanza oltre rispetto alla reale capacità di gestione. Ecco. Ma questo l'abbiamo detto al ministro, Certo. Abbiamo detto al ministro, noi abbiamo un'esperienza di gestione importante, perché riteniamo di avere anche tutte le capacità tecniche e scientifiche, però ci dovete dire se, avendo il ministro questa posizione molto, diciamo, liberale, definiamola così, rispetto alla sì, lo ricordiamo, il ministro Costa ha detto, mi raccomando, non abbattete. Esatto. Io non entro nel merito politico, ne prendo atto e dico benissimo, diteci però cosa facciamo, ci dovete dire dove i soggetti pericolosi, che purtroppo non stanno accadendo casi maggiori, dove li dobbiamo, come ci dobbiamo comportare, perché se voi non li volete catturare e quelli che attaccano le persone magari poi cosa facciamo, ministro, ci dica lei. Beh, certo, cosa fare. Certo, visto che lei poi deve amministrare il territorio, quindi deve arrivare a soluzioni concrete. Chiaro, ci sono chiaro. Delle zone in Europa dove li possiamo portare i casi pericolosi. Bene, io di questo ne ho parlato al ministro. Il ministro ovviamente ne è a favore. Allora vediamo di trovare una soluzione, perché altrimenti qui la gente non capisce più quello che sta accadendo. Certo. Boitani, al di là di M49, al di là degli orsi, possiamo un po' raccontare gli effetti del lockdown sul mondo animale? Ma sicuramente ci sono moltissime specie che sono generaliste quanto riguarda le loro necessità di habitat, cioè che si adattano a qualsiasi situazione, basta non cacciarli via. Ebbene, allora tutte quelle specie lì naturalmente hanno riguadagnato molti spazi che l'uomo gli ha lasciato lì, perché sono anche le periferie delle città, a volte anche dentro le città stesse, oppure fotografie che abbiamo visto dei delfini in porto e così via. Cioè, tutte le specie che non hanno degli habitat particolari, nel momento in cui l'uomo ha tolto il disturbo, loro hanno piano piano rioccupato. Ecco, ma ora in qualche modo hanno inteso che diciamo questa l'hanno inteso subito purtroppo, poi c'è il problema cinghiali, lì bisognerebbe fare una puntata dedicata ai cinghiali, visto che tutti i giorni arrivano aggiornamenti di cronaca e si tratta talvolta anche di problemi molto molto difficili da risolvere in determinate città. Fugatti, andiamo fuori tema, come sta andando l'estate chiaramente sotto il profilo turistico in Trentino? È chiaro che i primi periodi hanno risentito fortemente dell'effetto lockdown. Devo dire che negli ultimi settimane il Trentino, essendo, diciamo, un territorio montano e quindi un ambiente sano e quindi che ti porta a respirare, come diciamo noi nella nostra pubblicità sul Trentino, viene ad essere anche un territorio ricercato da chi in questo momento post-Covid ricerca questi ambienti liberi di montagna, ambientali e quant'altro. Quindi abbiamo fortemente sentito la crisi in queste settimane, vediamo che c'è molto interesse sul Trentino e ovviamente speriamo che ci sia anche le prossime settimane. Ecco, italiani prevalentemente, chiaro. Sì, sì, questo sì, questo sì. Però l'italiano che riscopre le bellezze italiane, voglio dire, è anche culturalmente, mi permetto di dire, un aspetto positivo. Questo è quello che stiamo offrendo ai nostri turisti in queste settimane. Grazie, grazie. Qualcuno ci scrive, scusate, ma se l'orso non può vivere nei boschi, dov'è che può vivere in pace? Boitani, faccio questa domanda, la ribalto a lei. Ma no, ma l'orso vive nei boschi, vive anche accanto all'uomo, basta andare in Abruzzo, vive anche ai margini dei paesi. L'importante, come diceva prima il Presidente Fugatti, poi è trovare il punto di coesistenza, che secondo me non va misurato con il numero di orsi, se ne possono essere pure 1000 se non danno fastidio. Bisogna vedere davvero qual è il punto di compromesso tra la popolazione umana e la popolazione di orsi, cioè qual è il livello di tolleranza che l'uomo può avere per la presenza dell'orso, che non è tanto di danni alle arnie piuttosto che alle pecore, agli animali mangiati, quindi sono veramente piccole cose e sicuramente non intaccano le capacità economiche di una provincia, certo, come la Trentino. Certo. Possono essere, è la probabilità di rischio per questo va valutato a tavolino con i tecnici e poi, io lo dico da sempre, quando si trova quel singolo individuo che dà fastidio, ma senza problemi va rimosso, punto. M49 fa parte di questa categoria, evidentemente. Temo molto di sì, però al quale va la simpatia. Dovete sapere quanti messaggi ci stanno arrivando di solidarietà a Forza M49, chiaramente è un po' un personaggio dell'estate e chiaramente un po' tutti tifano per l'orso perché è inevitabile, nessuno vorrebbe che facesse una brutta fine, però indubbiamente Fugatti è un problema la gestione di questa emergenza. Allora io vi ringrazio per averci aggiornato su il mondo di M49, ringrazio quindi Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. E grazie chiaramente a Luigi Boitani, professore di zoologia al Dipartimento di Biologia e Biotecnologia all'Università La Sapienza di Roma. Grazie mille, arrivederci. Effetto notte estate. Quasi le 20:17, ancora buonasera dallo staff di Effetto Notte Estate. Beh, a quest'ora ormai prendiamo l'abitudine, andiamo al bar a parlare di calcio. Questa sera oltretutto si giocano le partite. Dario Ricci, buonasera. Eccoci caro Andrea, sì. Ecco, allora mi aggiorni sulla partita, credo che sono nell'intervallo, no? Sì, sì, sono Parma-Atalanta, sono alla fine del primo tempo, col Parma in vantaggio, col più classico dei gol degli ex, Kulusevski, che come sai, no, è un giocatore che sta un po' a metà in questo, perché ex dell'Atalanta, ceduto tramite il Parma alla Juventus già da tempo, però intanto ha piazzato il colpo dell'ex, quindi Parma in vantaggio per 1-0. Beh, questo è un elemento di grande interesse, no? Beh sì sì, ragazzo, insomma questo ragazzo c'ha gamba, sicuramente è un giocatore, sembra un Gervinho bianco, insomma, no, per dare l'idea del giocatore, perché è capace di questi strappi anche non solo di forza ma anche di talento, quindi si appaia bene proprio col compagno di reparto. Insomma, potrebbe essere un giocatore, appunto, il primo vero sarriano della Juve che verrà. Però senza portarci troppo avanti, bisogna dire che è un ragazzo che ha fatto un buon campionato e ha dei numeri, staremo a vedere, insomma. Ecco, allora ieri abbiamo festeggiato la nona sinfonia della Juventus, abbiamo parlato con te chiaramente il giorno dopo, abbiamo commentato il significato di questa ennesima impresa dei bianconeri. Stasera mi piace ricordare uno scudetto che forse ha segnato veramente la storia del calcio e non solo della squadra che lo ha vinto. Sono 50 anni fa il Cagliari vinceva il campionato. Ne parliamo con Bruno Corda, buonasera. Buonasera. Voce della radio, della TV a livello appunto isolano. Giancarlo Ghirra, un amico, collega, inviato dell'Unione Sarda per tanto tempo. Buonasera Giancarlo. Buonasera Andrea. Allora Bruno e Giancarlo, sostanzialmente io voglio affondare nei vostri ricordi personali. quel giorno dove eravate, Bruno? Ma io quel giorno ero sicuramente al mare. Quel giorno ero sicuramente al mare, ma ero molto ragazzino, io avevo appena compiuto 16 anni. Però. Ho avuto la sfortuna di nascere appunto troppo tardi, perché avrei voluto raccontare io le gesta di quel Cagliari. L'unico dispiacere dopo 30 anni in giro per l'Italia a raccontare Cagliari dal 77 al 2006, non ho potuto raccontare il gol di Gigi Riva, ecco. Però ho avuto il privilegio di piazzare con Riva appunto dal 76, appena chiusa la carriera. Per la Sardegna è stato ci arriviamo. Scusa, voglio sentire la testimonianza di Giancarlo Ghirra. Sì, Doveri, certo. Voglio salutare Giancarlo. Ciao Bruno. Ciao, io che sono più anziano di Bruno, ma neanche tanto, dai, su, non esagerare. Ero in curva il giorno di Cagliari. Amsicora, no? Era l'Amsicora, no? Sì, all'Amsicora. Era la partita decisiva, con Cagliari-Bari, segnò prima Riva e poi Gori, un 2-0 che mise la parola fine, diciamo, a quel campionato. Peccato che sia stato poi l'anno dopo che Riva sia stato vittima di un brutto infortunio a Vienna. Il malefico Hoff fece un'entrataccia e il Cagliari perse il secondo scudetto sicuro. Pensa che quella partita veniva dopo un Inter-Cagliari a San Siro, in cui il Cagliari vinse 3-1, e si dice che Mazzola avesse chiesto a Riva di smetterla, cioè di accontentarsi di quei tre gol, di non infierire ulteriormente. Fermatevi. Era uno squadrone eccezionale, avrebbe vinto sicuramente un altro scudetto, chissà. Vabbè, però il significato di quello scudetto, arriviamo. Mi sembra di passeggiare per le strade di Castello, trovo Giorgio Porrà, un altro collega, Skyport. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti, mi stavo commuovendo a sentire. Questa è proprio una rimpatriata di Sardi. Ragazzi, ma là mettiamo sul porcetto. Scusate, Mario Ricci. Ormai sì. Siamo qua. Tra l'altro vi parlo della Gallura del Nord, quindi adesso è quello giusto. Allora, calmiamoci ora con le questioni enogastronomiche, perché altrimenti apriamo un altro c'è capitolo. C'è pure un vino, no Andrea? Io l'ho assaggiato, il rombo tanti, di tuono, ce ne sono no? Tanti. Intitolato volta, a Gigi Riva, che è buonissimo. Sì, una volta non mi sono alzato, io che bevo poco, però è riuscito a fermarmi. Con quello cambi idea, fidati, quello cambi idea. Giorgio Porrà. Costa 13,26 euro, ma qui va a ruba. Giorgio, porta due bottiglie. Qui ormai ci stiamo un po' ubriacando già di parole. Giorgio, dove eri tu? Dunque, io avevo 9 anni, ascoltavo la radio con mio nonno, purtroppo non c'era ancora Bruno Corda. Non c'era ancora Bruno Corda e neanche Valerio Vargiu. Ciao Giorgio. E qua ormai sembra una call di WhatsApp, ormai ci salutiamo, è bello, ragazzi. Siamo al bar, l'avevo detto, abbiamo lavorato tanti anni insieme. Beh, ho fatto una sorpresa perché vi ho messo insieme senza avvertirvi. Un grande regalo essere cresciuto con Bruno. Allora, io ora però devo dirigere il traffico. Partiamo da Giancarlo Ghirra. Cosa ha significato per la Sardegna quell'impresa sportiva? Andrea, per la Sardegna è stata, come dire, un momento di riscatto antropologico, sociale, che ha coinciso anche con un periodo, diciamo, di sviluppo economico. Uno sviluppo economico che si è rivelato effimero, perché l'industrializzazione è successivamente fallita, ma in quel momento la Sardegna era, diciamo, conobbe con quel Cagliari una fase di riscatto pazzesco e anche di riscatto sociale e culturale. Gigi Riva racconta sempre che nei campi del nord, dove il razzismo era già presente allora, e venivano insultati pastori, pecorai, insomma, però loro rispondevano vincendo, diciamo così. Però fu un grande momento di riscatto di identità. Il Cagliari giocava nei campi di Milano, Torino e Genova con un sostegno pazzesco sugli spalti, perché c'erano decine di migliaia di immigrati che erano andati via negli anni 50 e 60, che ormai si erano inseriti nelle nuove realtà e tifavano per quella squadra. Porrà, un fenomeno sociale molto importante, tra l'altro erano gli anni del Vietnam, comunque era la piccola squadra che vinceva contro i grandi della Juventus, dell'Inter, del Milan, insomma, qualche volta anche contro certi arbitraggi, una bella epopea popolare. Porrà, sei d'accordo? Ovviamente condivido tutto quello che dice Ghirra, e sì, quella è una stagione in cui tutto sembrava possibile, insomma, non soltanto nel calcio, no? Appena andati sulla Luna, insomma, stavano accadendo delle cose straordinarie, e quella stagione miracolistica ci fu anche lo scudetto del Cagliari. Parliamoci chiaro, prima di quell'impresa, che resta una delle più grandi imprese del Novecento sportivo, la Sardegna era un puntino sperduto nel Mediterraneo. Dopo abbiamo conquistato dignità, credibilità, come sentivo naturalmente ci fu un impulso anche da un punto di vista industriale, poi ci siamo accorti che le cose non andavano esattamente così, però in quel momento davvero tutto sembrava possibile. La Sardegna conquistava una credibilità, una dignità che in precedenza non aveva mai avuto. È vero, Riva l'ha detto spesso, noi eravamo una squadra di extracomunitari, così ci consideravano quelli del continente, anche se in quella squadra non c'era neanche un sardo, però tutti avevano la famosa costante resistenziale sarda, quella che è appartenuta, adesso non voglio fare citazioni troppo dolci, dai. A Gramsci, alla Deledda. Per quanto riguarda i calciatori, a me vengono in mente effettivamente Matteoli. Però troppo dotte, effettivamente cercare abbassare il tono, Giorgio, perché effettivamente io la ritrovo per esempio Paolo Fresu, il più grande trombettista vivente, ecco, questi sono tutti i nostri eroi, e hanno tutti questa particolarità che è un mix calibrato di attitudine, talento, ostinazione nuragica, insomma, noi cerchiamo di venire fuori in questo modo qui. E poi Bruno Corda, oltretutto io frequento Cagliari, ho frequentato per un po' di anni, e alcuni giocatori poi appese le scarpette al chiodo hanno deciso di vivere in Sardegna, magari per questioni, diciamo, sentimentali o per un amore per la terra di Sardegna, ma soprattutto sono diventati eroi. 7 undicesimi vivono ancora, alcuni purtroppo sono venuti a mancare ancora, sono protagonisti, sono passati 50 anni e ancora oggi sono entrati nella leggenda. Però a proposito di riscatto sociale, ho avuto il privilegio di viaggiare appunto col Cagliari e con Gigi Riva, perché lui smise il 1 febbraio del 76, dopo l'ultimo infortunio, lo strappo contro il Milan alla Santeria, parliamo naturalmente di Santeria, e quindi viaggiando mi sono accorto che il Cagliari, quello scudetto per il Cagliari, non solo per il Cagliari, è stato il riscatto per il centro-sud, perché il Cagliari è riuscito a infrangere lo strapotere appunto delle milanesi e della Juventus. Scusa se entro a gamba tesa, visto che parliamo di, però già mi mettono la sigla in sottofondo, vuol dire che proprio devo andarmene. Giancarlo Ghirra, Bruno Corda, Giorgio Porrà, vi saluto tutti e non vi richiamo perché altrimenti non ho tempo. Dario Ricci, un flash, giochiamo anche alle 21:45, no? Chi gioca? Inter-Napoli, amichevole di lusso, direi. Amichevole di lusso, 20:27:20, grazie a Valeria Bernardi in regia, Valentina Ternullo e Alessandro Schirano che mi hanno assistito in redazione, grazie per averci seguito, grazie ad Andrea Ferro che vi parla al microfono e che vi dà appuntamento a domani, effetto notte estate 18:30.